Ben ritrovati a una nuova puntata di Coccoli al Silicio. È qualche settimana che non trasmetto, ho deciso di riprendere oggi con i miei soliti 20 minuti di ritardo e in realtà non ho una puntata lunghissimissima, anche se è tanto che non trasmetto, però volevo fare una cosa che avevo preannunciato nella mia ultima o forse penultima trasmissione, se avrei detto che avrei dedicato un po' di tempo a cercare almeno un pochino di spiegare alcuni termini che si sentono molto di frequente ultimamente legati agli exploit che hanno a che fare con quella strana zona della memoria che è detta lo heap. Questi strani, diciamo, bug che riguardano il nostro amico Heap, sostanzialmente sono qualcosa che negli ultimi anni è molto molto frequente, in parte perché questa zona dello Heap è difficile da mettere in sicurezza. In pratica, che cos'è lo Heap? Lo Heap è una zona di memoria che i programmi utilizzano per allocare, così viene detta, oh, c'è qualcosa che frizza, non so cosa sia, per allocare memoria cosiddetta dinamica, cioè quelle cose che io non so quando ho scritto il programma quanto dovevano essere grosse. Vengono fuori via via. Ogni volta mi alloco della memoria, poi la libero, la piglio e la libero, la piglio e la libero. Per fare questa operazione si utilizzano sostanzialmente di solito delle funzioni di libreria, scusate, che corrispondono ad alcune azioni precise, cioè ce n'è una che alloca la memoria e una che la libera libera la memoria che ho prenotato o ho deciso di utilizzare. In alcune realizzazioni di Heap, perché ogni sistema operativo, ma in realtà tendenzialmente anche ogni software sufficientemente evoluto potrebbe voler gestire autonomamente questa cosa. In alcune di queste realizzazioni, in particolare di solito quelle che si usano programmando in C, la funzione malloc è quella che alloca la memoria e la funzione free è quella che libera la memoria. Perché l'heap va così forte ultimamente? E perché sostanzialmente l'altra zona un sacco utilizzata, che era lo stack, attualmente proprio per come era costruito, è stato molto semplice, cioè semplice, in realtà ci sono voluto anni, però è stato più facile rendere gli attacchi sullo stack inoffensivi. Non perché i programmatori non sbaglino più, ma perché questa zona di memoria è stata concepita con tutta una serie di robe che rendono complicatissimo riuscire ad arrivare a eseguire comandi strambi, cioè, o comunque non previsti dal programma, sfruttando un bug presente che in qualche modo debba poi andare a aggeggiare su questo stack. E invece lo heap, che una gran parte diciamo della zona di memoria utilizzate dai programmi, è più difficile da mettere in sicurezza, proprio anche in parte per la sua dinamicità, cioè nel senso che non essendo una zona precisa e definita, ma essendo una zona che le cose ci vengono buttate via via e appunto vengono messe e poi tolte, messe e poi tolte, è più difficile da sistemare. In particolare, quando si parlano di attacchi di questo tipo, si fa riferimento a tre grosse categorie di attacco. Una è l'heap overflow, che coincide con lo stack overflow, come è semplicemente un buffer che è stato allocato, perché questo è il termine che si utilizzano, un buffer di dimensione X, ma nella quale non viene controllato che vengano messe X più qualcosa dati, cioè io metto più roba di quella che il mio programma aveva richiesto all'allocator, cioè il gestore dello heap, di riservargli. E cosa succede? Sostanzialmente accade che io finisco a scrivere in zone di memoria nella quale non dovrei. Ora, tendenzialmente, ora senza entrare nel dettaglio, però è comune a tutte le realizzazioni di questa struttura IP, diciamo, la presenza di qualche tipo di metadato accanto al dato, cioè alla zona di memoria che io ho prenotato per mettere i miei dati, ma per gestire queste che possiamo immaginare come tante caselline, no? Che io prenoto, dico io voglio una casellina grossa tot, poi magari me ne serve un'altra, dico ne voglio un'altra grossa tot. Allora, poi una la libero, quindi diciamo che tutti gli allocatori, cioè quelli che gestiscono sta roba, hanno delle strutture, dei metadati, che tengono vicino al dato per dire allora questo dato era grosso tot, il prossimo dato libero in memoria, cioè la prossima zona libera è questa qua, e altre cose di questo tipo, no? E essenzialmente perché? Per rendere più veloce, perché comunque questa gestione della memoria non è che è semplice da gestire velocemente, quindi uno si tiene de degli appunti. Ecco, se io posso sovrascrivere, però andando i miei dati finiscono a sovrascrivere gli appunti, e io vado a influenzare una zona di memoria che in realtà era una zona quasi di servizio, quindi se vado, riesco a sovrascrivere quegli appuntini, posso fare cose strane. E questo è uno diciamo, degli utilizzi tipici, di un heap overflow, andare a sostituire e a sovrascrivere i metadati associati al dato, che volevo, trattare, diciamo. E questa è una possibilità. Un'altra possibilità sono allora, ho detto gli heap overflow, il use after free. È un termine utilizzato tantissimo, in particolare stavo ora guardando i siti che guardo di solito per raccattare le news di cose security related, cavolate simili, e ho visto che è uscito è stato ritrovato uno zero day per Chrome, e guarda caso che cos'era questo zero day, era proprio una use after free, non molto meglio dettagliata in verità, nel senso che non hanno reso noto i dettagli del problema. Hanno reso nota la patch, hanno detto assolutamente, assolutamente. Era tanto uno zero day che è stato trovato da Kaspersky nelle sue analisi live, quindi era uno di quelli utilizzati, nel senso che l'hanno trovato perché qualcuno lo sta veramente utilizzando. Quindi se usate Chrome per tutte le versioni sappiate che dovete accorrere. Era una use after free, penso tra l'altro che Chrome utilizza proprio un proprio gestore di memoria dinamica, non vorrei dire una cavolata. I browser però qualche volta lo fanno di gestirsi questa zona di memoria, mette e togli questo heap da solo. Però su questo mi preparo meglio la prossima volta. Comunque a noi quello che interessa è che era appunto una use after free. E che cosa sono queste use after free? Allora, per capire che cos'è una use after free, scusate. Oggi non ce la faccio, sarà che settimane che ero fermo, non riesco a parlare. Una use after free è qualcosa che io utilizzo dopo averla liberata. Cioè io mi hanno detto che noi allochiamo delle zone di memoria e poi però le possiamo anche liberare. Perché? Perché se quella memoria lì non la uso più, allora cosa succede se io riutilizzo una zona di memoria dopo averla liberata? È che io mi sto facendo riferimento a qualcosa. Cioè, se io fossi un'isola, diciamo, e vivessi da solo, di nuovo, no, non sarebbe un problema, perché l'ho liberata e poi me la riuso e la troverò vuota, no? E però non è detto che sia così, nel senso che non è affatto detto che sia così, perché nel programma convivono, cioè, tante cose. Cioè, una volta il programma mette robe e poi dopo fa altre cose, quindi se io parecchio dopo che ho liberato quella zona di memoria mi faccio di nuovo riferimento a lei, non è detto che io non trovi delle cose là dentro. Magari riesco anche a pilotare cosa voglio trovare là dentro e quindi andare poi a far fare al programma cose che lui normalmente di suo non farebbe. E questa era la use after free. Un'altra possibilità che assomiglia un po' a questa è la double free. La double free che cos'è? È sostanzialmente un modo per di nuovo referenziare una zona di memoria liberandola due volte, perché io con la prima la libero, poi faccio cose e poi rilibero la stessa zona di memoria, ma nel momento in cui, appunto, di nuovo, se io fossi da solo, semplicemente avrei due volte liberato il nulla. Cioè, nel senso che no, io una ho dato, libero la casella di memoria, poi la rilibero di nuovo e dice, vabbè, e l'hai fatto due volte. Ok, però io non sono da solo, perché magari la seconda free non accade all'istante, ma accade dopo che io ho allocato altra memoria. E quindi nel momento in cui la libero, cosa sto facendo? Sto liberando una cosa che ha fatto qualcun altro e quindi la referenzio di nuovo, cioè faccio di nuovo riferimento a lei, ma in un momento in cui la logica delle... Diciamo di come è concepito lo heap, lui non si aspetterebbe che ci fosse qualcuno che per due volte fa riferimento. Per lui quella zona lì doveva essere libera o utilizzata da qualcun altro. Capito? E questo è quanto. Con questo abbiamo, diciamo, coperto i tre grossi casi di attacchi sullo heap, sono tre, e se leggete un po' di riviste, cioè di riviste, di questi siti, eccetera, sentirete spesso parlare di use after free, di double free, di overflow e cose, e cose simili. E molto spesso, alcune volte, i bug si sommano, nel senso che da uno arriva un altro e via così, insomma. Cioè, nel senso che tutte queste cose che io vi ho detto come esattamente ci sono queste tre categorie, in realtà immaginatele come dei confini leggermente più sfumati di così. Cioè, a grandi linee questo è. Però ci sono delle sfumature. La parte interessante rispetto allo heap, anche quella storica, è sostanzialmente che lo heap ha sempre avuto gli attacchi con i nomi più ganzi. Infatti ora vi faccio sentire un po' di musichina ganza e poi dopo vi cito alcuni di questi nomi che sicuramente voi capite, anche perché questa cosa è durata nel tempo, perché con dei nomi così fighi, era inevitabile che andasse a finire così. Eccomi, eccomi, vi tolgo la musichina funky che in effetti ho beccato proprio un pezzo che finiva e poi un pezzo che era sostanzialmente noiosissimo, che si ripeteva ad oltranza sempre lo stesso giro, però tant'è. Mi dicevo appunto che hanno sempre almeno alcuni attacchi. Adesso stiamo parlando di una particolare realizzazione di un allocator che è quella contenuta nella glibc, che è sostanzialmente la libreria, diciamo, di funzioni CI che trovate su Linux, cioè quella che usate normalmente tutti voi. Già nel 2004, sostanzialmente era uscito c'era iniziato a parlare, ma probabilmente anche un pochino prima, era iniziato a parlare di attacchi allo IP. In particolare, c'è un paper molto famoso dal nome appunto Ganzo, che è Malloc Maleficarum, scritto da come si chiamava? Fantasmal Fantasmagoria. Esatto, questo un personaggio così che delineava alcune tecniche abbastanza generiche, studiando come era realizzata questa glibc, cioè diciamo, la gestione dell'IP della glibc. Delineava cinque tecniche a cui aveva dato dei nomi veramente forti. Era cioè una roba che c'è, cioè, proprio da ma meglio dei Cavalieri dello Zodiaco, proprio come scelte. C'era praticamente delineava cinque case. Ognuna di queste case aveva un nome e corrispondeva ad un attacco. C'era l'House of Prime, l'House of Mind, l'House of Force, l'House of Lore e l'House of Spirit, che erano cinque attacchi classici. E la cosa interessante è che lo IP sembra studiato apposta per favorire, cioè almeno questo della GDBC, questo tipo di lessico particolarmente poetico, perché sostanzialmente la prima cosa con cui tu ti imbatti quando studi un po' lo IP è il fatto che tutti i pezzettini di IP stanno in una roba che si chiama arena. Capito? Cioè, ogni programma può avere una o più arene, cioè è una roba proprio che invita in qualche modo all'agone, no? Cioè allo scontro intellettuale, però, non una roba da bruti. E queste tecniche hanno, diciamo, sono durate per un tot. C'è stato poi un aggiornamento in questi anni, cioè ne sono saltate fuori altre, essenzialmente per alcuni cambiamenti della glibc, particolarmente dovuti all'utilizzo alla gestione delle IP per i singoli thread. E questo ha dato vita a dei nuovi attacchi, che hanno dei nomi molto più banali, però, se devo dire la verità, no? Perché si chiamano, che ne so, T-cache poisoning e cose così, cioè che però sono, rispetto a quell'altri che erano belli tosti, questi sono molto meno interessanti. È però comunque buffo, appunto, che non lo so, che è una cosa che a me meraviglia sempre, il fatto che questa informatica della sicurezza un po' fai da te, cioè questa ancora delle fanzine, era estremamente molto più divertente rispetto la roba moderna, che sostanzialmente è stata presa, impacchettata e apposta per essere rivenduta dalle aziende. Quindi tutto deve assumere un tono molto serio. Fatto salvo quando è a che fare con i commerciali, fatto salvo che invece, che tra i nerd si tollera che comunque si divertano, perché tanto comunque sono tutti cretini che si vestono da Harry Potter o da Guerre Stellari, delle cose così. In realtà, ecco, questo spirito non cattura esattamente, cioè questa cosa non cattura esattamente lo spirito che io ho in mente, però pazienza. E comunque volevo appunto raccontare di questi cosi, questi attacchi che riguardano lo IP, appunto perché in qualche modo hanno preso il posto di quelli che sono stati per anni gli attacchi sullo stack, no? Anche se questa cosa ormai era da tempo, però si continua ancora dopo tanti anni a trovare queste tipologie di attacchi, mentre invece dopo tanti anni sostanzialmente non si parla quasi più di, che ne so, di Stack Overflow e di cose simili, appunto perché non è più una zona particolarmente facile da utilizzare per gli attacchi, mentre lo IP è rimasta tale. E quindi, secondo me, aveva, insomma, senso raccontare un pochino di cose, almeno per incuriosire. Poi mi piacerebbe E questo ve lo dico così. In quel di Napoli stanno organizzando il loro, diciamo, questa cosa, questo evento di 3 giorni che fanno tutti gli anni in NAC, e alla mensa occupata, che sarà, mi sembra, il 29, 30. E poi non mi ricordo se saltiamo già il 1º dicembre o c'è anche il 31 a novembre, chi cavolo se lo ricorda. Comunque è l'ultimo fine settimana di novembre, quel venerdì, sabato e domenica, e vorrei proprio lì proporre una specie di rassegna queste cose che vi ho detto, facendole vedere dal vivo con alcuni esempi. Il tutto però dura massimo un'ora, e quindi sarà una roba un po' a selezionare le cose più ganze, però sicuramente mi piacerebbe far vedere qualcuna di queste case. E stavo puntando su, ve lo dico, l'House of Force. Era quella che mi aveva ispirato di più. E quindi forse in quel di Napoli mi ritroverete a delirare ancora su codesti buffi argomenti. Ora vi lascio un altro po' di musica, sperando stavolta di non beccare il pezzo che finiva, e poi volevo riprendere una cosa che inizialmente facevo sempre a inizio puntata, cioè che nelle scorse volte facevo inizio puntata, che era quella di relazionarvi un po' sulle attività dell'E-Club Fiorentino, e in particolare vi volevo parlare di quello che accade dopodomani, perché abbiamo ospite uno sviluppatore di Tor che ci delizierà della sua presenza. Sull'urlo rientro io. Vi dicevo appunto che mercoledì prossimo, precisamente, ora consulto anche il calendario, mercoledì 6 novembre, avremo con noi appunto uno sviluppatore di Tor, una persona che fa parte del Tor Project, che è in giro per l'Italia e ha ben pensato di chiedere ad alcune città presenti degli eClub di ospitarlo in modo da poter raccontare un po' che cosa fa. Quindi parleremo sostanzialmente di Tor, che, per chi non lo sapesse, è sostanzialmente un protocollo di routing, cioè di aggeggiamento del vostro traffico web, per renderlo anonimo, cioè per anonimizzarlo, ecco, non renderlo facilmente tracciabile. Funziona all'incirca secondo il principio la tua connessione finisce in una lavatrice e esce da qualche altra parte nel mondo, dove c'è un poraccio che sostanzialmente fa da exit node, viene detto così, cioè lui dice, e sarà lui a presentarsi al sito, al posto tuo, però siccome prima sei passato da una lavatrice, è impossibile riuscire a risalire a ritroso per capire in che modo a ritracciare il traffico passando da a, a, a cioè, rifare a ritroso il percorso, conoscendo solo la fine e la destinazione. Cioè, che mi fermo all'exit node e poi non so bene che cosa è successo prima. E È interessante perché ora sono uscite appunto alcune cosine nuove, in particolare noi gli chiederemo, credo, di parlare di, come si chiama, Snowflakes, che è un, spero di aver detto giusto, di non aver detto una cavolata, comunque era il fiocco di neve, che è un modo di utilizzare, diciamo, Tor per sfuggire. Alle maglie di controllo della rete di alcuni paesi che sono molto, molto, molto poco permissivi in questo senso. E Snowflakes sostanzialmente ha anche un'app, cioè un'app, un'estensione da utilizzare dentro i due principali browser utilizzati dal mondo, sostanzialmente Firefox e Chrome, che permette di condividere un po' della propria banda e di entrare a far parte di questa rete proxy di Tor, di cui comunque non farete l'exit node, farete solo parte della lavatrice interna sostanzialmente. E insomma, però condividendo banda potete aiutare a far funzionare più veloce e meglio la rete Tor, e quindi è una cosa che magari può essere interessante raccontare, capire meglio, farsi spiegare da lui perché questo progetto ha bisogno anche dei propri utenti per funzionare. Il resto delle attività di FDU del mercoledì sono sostanzialmente ogni 2 settimane il corso di reversing, principalmente su Linux. In realtà lo stiamo facendo praticamente solo così. Le mire iniziali erano più ambiziose, ma l'argomento troppo vasto e le mie scarse conoscenze in realtà nell'ambito più windowsoso mi hanno portato poi più verso questa direzione, anche perché l'interesse delle persone sembrava diretto, diciamo, sì, anche loro in questo verso questo ambito di applicazioni. Per ora stiamo facendo un sacco di giochini, e probabilmente la prossima lezione, che sarà, cioè la prossima chiacchierata, che sarà il mercoledì 13 novembre, verterà sull'analisi del formato dei file, quindi penso in realtà quasi solo formato ELF. E in questa lezione volevo anche raccontarvi un po' di modi per sostanzialmente aggeggiare il formato ELF e riuscire a infilare dentro il formato degli eseguibili Linux quello che io definisco il pinocchietto, cioè sostanzialmente del codice che non è stato previsto da chi ha scritto il programma. Questo chiaramente cambia il programma, però il gioco è cambiarlo ma senza romperlo. Quindi quando voi lo lanciate, il programma deve partire, ma deve fare anche altro. E quindi penso che nello spiegare il formato del file, del formato ELF, che è il formato dei file binari Linux e di altri sistemi operativi BSD-like, cioè Unix-like, scusate, appunto utilizzeremo questo escamotage per capirlo in profondità, cioè utilizziamo questo, che per me è soltanto un giochetto, per studiare e capire per bene come funziona questo formato. È una roba molto da modello virus writer, cioè come approccio. Perché appunto questa cosa di manipolare i file, di infilarci dentro una cosa che poi ne fa un'altra, che poi magari duplica se stessa, eccetera, è una roba molto da virus vecchio stampo. E noi proveremo a fare una cosa di questo tipo a sto giro. E la lezione successiva invece non lo so ancora cosa facciamo, perché praticamente ho fatto un programma iniziale, ma era vago, e io ogni volta, in base al rispetto rigorosamente il programma generale, ma non ho la più pallida idea da una volta all'altra che cosa faccio. Me la faccio venire nelle 2 settimane precedenti. E con questo diciamo che le attività di IFDU sono concluse per il mese di novembre. Nei mercoledì, che non sono occupati da niente, appunto, o incastriamo delle cose casuali, tipo questa di Torre è stata una fortuna, sarà una roba super interessante, però è stata fortunosa, oppure se volete venirci a trovare, ci trovate lì che facciamo l'assemblea a cazzeggio comunque. Quindi ogni mercoledì mercoledì o trovate il corso di reversing, o in questo mercoledì trovate la conferenza su Tor, oppure trovate noi che stiamo lì e ci conoscete e così. E basta. Quindi anche le attività di IFDU sono rendicontate, e a questo punto non mi rimane che chiudere, direi, la puntata con qualche secondo, no, qualche brevissimo minuto di musichina, e vi saluto e ci rivediamo, ci risentiamo la prossima settimana, penso, forse con la prima puntata con ospite, nel senso che avrò un ospite con il quale sparleremo niente proprio di meno che di Nikola Tesla. Si chiamava Nikola? Spero di sì. Se no, comunque tanto ci dobbiamo sparlare, quindi iniziamo a trattarlo male già da adesso e a non mostrare rispetto per i morti. Sì. Let's do it again.